Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Radio 24 Reportage. L'album di fotografie della scuola che riparte, cronaca di una settimana speciale, di Rosanna Magnano. Gli occhi lucenti per l'emozione e un sorriso incontenibile nascosto dalla mascherina. Sarà questa la fotografia del primo giorno di scuola, il 14 settembre 2020, che dopo 6 mesi di assenza ha riportato tra i banchi 5,6 milioni di bambini e ragazzi. Poi solo nelle pagine successive dell'album rivedremo le ansie, i moduli da compilare, la querelle sulla misurazione della temperatura a casa o a scuola, i 2 milioni di banchi monoposto che arrivano a singhiozzo e le decine di migliaia di cattedre ancora vuote, forse come ogni anno, ma che quest'anno pesano di più. Dirigenti scolastici e personale hanno dovuto preparare alla ripartenza istituti e strutture fortemente differenziati ed ecco il primo scatto, a Milano, dove la prevenzione contro il Covid ha una marcia in più all'istituto Schiaparelli Gramsci, tra le più antiche scuole tecnico-commerciali della città e liceo linguistico, dotato per un anno di 52 depuratori per l'aria con filtro anti-SARS-CoV-2. Un progetto pilota promosso da Città Metropolitana in partnership con la startup Nano Hub. Ma la scuola applica comunque alla lettera le regole anticontagio. La dirigente scolastica Loredana Leoni e le voci degli studenti al primo anno. Qualcuno un po' spaurito, qualcun altro che faceva un po' lo spavaldo, ma in realtà nascondeva le ansie da inizio dell'anno scolastico in generale, ma soprattutto in questa situazione. Io credo che tutti dovremmo stare molto vicini ai ragazzi. Io me l'aspettavo fin dall'inizio che sarebbe stato così, quindi nulla di particolare, sono abbastanza tranquilla. Io sono felice di tornare a scuola perché conoscerò nuovi compagni e nuove professoresse e il fatto di conoscerli dal vivo e non online mi fa molto piacere. Abbiamo dovuto dividere le classi più grandi in due gruppi, usare tutti gli spazi all'interno della scuola, tutti i possibili arredi, qualcosa ci manca ancora, insomma, ma ci stiamo arrangiando. Abbiamo riorganizzato anche le attività didattiche, riducendo gli spazi orari a 45 minuti in modo tale da poter poi lavorare sulla didattica digitale integrata. Non mancano situazioni svantaggiate. La scuola media Giovanni XXIII dell'Istituto Comprensivo Claudio Abbado di Roma è molto piccola, con 4 sezioni dislocate per rispettare il distanziamento su 3 plessi diversi, di cui uno lontano parecchi chilometri. Sentiamo alcuni genitori al microfono di Alessandra Schepisi. La nostra scuola hanno dislocato i bambini, a parte le prime 2 settimane che faranno turni alterni con il pomeriggio che per fortuna era la proposta iniziale ma per fortuna poi è stata modificata, sono dislocati in 3 sedi, una delle quali piuttosto lontana. Ci troviamo a dover affrontare questa difficoltà, ovvero bambini a distanza di molti chilometri con il traffico romano e quindi uno dei due deve aspettare fuori la scuola in attesa che qualcuno lo va a prendere, visto che ragionevolmente sarà una persona incaricata di prendere entrambi. La nostra scuola, la Giovanni XXIII, non è una scuola che è nata come scuola, perché è un palazzo del 1500, quindi sono delle classi molto piccole. Doveva fronteggiare in tempo, già da marzo, delle problematiche che ovviamente ci costringe il Covid. Il risultato è che grazie alla collaborazione di tanti genitori volenterosi, dinamici e testardi, abbiamo elemosinato alle varie parrocchie del quartiere Balduina che ci hanno dimostrato la loro benevolenza dandoci delle aule. Diamo la parola agli insegnanti. Gabriella Lobuono, da una scuola media di Reggio Emilia. La preoccupazione per i problemi generati dal Covid mette purtroppo in secondo piano la didattica, cioè il cuore della scuola. La riorganizzazione degli spazi per noi, per esempio, quindi delle aule, ha significato sacrificare i laboratori, quindi una parte fondamentale della didattica. E comunque ci riteniamo fortunati perché nella mia scuola, nella provincia emiliana, una scuola secondaria di primo grado, non abbiamo avuto la necessità di dislocare le aule. Inoltre i protocolli messi a punto sono molto articolati e ottemperare le disposizioni temiamo possa snaturare, ecco, il ruolo dell'insegnante a cui viene chiesto in primis di vigilare. Stefania Flore, docente di un istituto tecnico economico romano. Nella mia esperienza di questi pochi giorni vedo che i ragazzi alle superiori, benché molto attenti e ligi alle regole, ravvisano la contraddizione nelle loro parole e ipocrisia tra le misure rigide interne alla scuola e quelle che vivono immediatamente fuori dal cancello. E al di là delle esagerazioni o della mancanza di responsabilità dei singoli, no? Va detto che in una città come Roma i mezzi pubblici sono già pieni e siamo ancora alla prima settimana di scuola dove gli ingressi sono stati tutti molto scaglionati. Sembrerebbe, anche se non per volontà di qualcuno, che la scuola debba fare in questa situazione dei passi indietro da un punto di vista metodologico. Basti pensare all'inclusione degli alunni disabili. Nella mia scuola c'è un'alunna non udente che, per quanto non obbligata a indossare la mascherina, è del tutto inabile all'autonomia in un ambiente dove tutti la indossano. In Puglia le lezioni inizieranno il 24 settembre, ma alcune scuole baresi chiedono ancora qualche giorno. Stefania Carbonara, docente in una scuola superiore di primo grado di Ruvo di Puglia. Ci sono comuni come Corato o Terlizzi nel Nord Barese che hanno chiesto una proroga, inizieranno quindi il 28 di settembre proprio perché non ancora pronti alla riapertura per inadempienze anche da parte dei comuni che ancora devono completare in queste scuole i lavori strutturali previsti nelle aule per garantire gli spazi alle classi. Io insegno in una scuola secondaria di primo grado. L'attività che ci sta coinvolgendo tutti quanti come docenti in questo momento è un'attività frenetica di organizzazione, un'organizzazione molto precisa, molto puntuale. I docenti sono pronti per la ripartenza, non vedono l'ora di ripartire in presenza, ma sono anche parecchio spaventati. Io per prima avverto una tensione rispetto a situazioni che assolutamente non riusciamo a prevedere se non sulla carta. Difficoltà e rischi moltiplicati per i circa 300.000 studenti disabili che sono rientrati a scuola troppo spesso senza l'insegnante di sostegno. Roberta Baldocchi, docente e referente Covid della scuola speciale statale Paolo e Larissa Pini di Milano, che ospita circa 80 bambini disabili tra i 6 e i 16 anni e dove nessun docente ha chiesto l'esonero. È andata bene, eravamo molto preoccupate perché i nostri bambini, essendo tutti disabili, non hanno distanziamento, non portano la mascherina, mettono le mani in bocca, mettono gli oggetti in bocca, però siamo riusciti ad organizzarci bene. Avete trovato dei bambini particolarmente in sofferenza dopo il lockdown? No, sono arrivati tutti felici di tornare a scuola, addirittura oggi c'era una bambina che piangeva perché non voleva andare a casa. Il distanziamento sociale con questi bambini è più complicato perché hanno bisogno di comunicazione e contatto. Come la state gestendo? Allora, non puoi tenere il distanziamento, assolutamente. Bambini piccoli di 6 anni che ti vengono in braccio, tu li tieni in braccio. Oppure che ti prendono per mano, che è già un successo enorme, che ti prendano per mano, tu non puoi rifiutarti, ritirare la mano, li tieni per mano, poi ti disinfetti. Usiamo anche le visiere trasparenti, che sono una cosa pazzesca, perché il bambino ti vede in faccia. Abbiamo bambini che stanno imparando a parlare, già alcuni bambini comunicano con la lingua dei segni. Se tu li devi fare da modello e dire rosso si fa così, toccandosi con un dito il labbro, non puoi farlo con la mascherina, è già difficoltoso farlo con la visiera. Devi seguire i loro bisogni e devi adeguarti a loro. Cioè, questa è la caratteristica della scuola speciale rispetto a magari un sostegno nella scuola comune, che è la scuola che si adatta a questi bambini. Quindi in questo caso rischiate di più? esattamente, rischiamo di più. Ed in più aggiungo che, non essendoci il ricambio di personale di ruolo specializzato, non arriva nella nostra scuola da anni. Ogni anno vanno in pensione almeno un paio di colleghe e questi posti rimangono vacanti, per cui anche l'età media dei docenti della nostra scuola è alta. Cioè è alta e se non arriva personale di ruolo è proprio un peccato chiudere una situazione del genere. Tra ritardi e carenze croniche di un'istituzione pubblica sulla quale si dovrà investire molto per riportarla al livello che merita, la guardia resta alta sul rischio contagi, ma la campanella alla fine è suonata in tutta Italia per un nuovo inizio. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su aruba.it.